i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Donne di tutti i giorni che non ti aspetti, di Alessandra Startari. Ogni donna di tutti i giorni è una donna che non ti aspetti. Se fosse uno slogan, diremmo che esistono donne di tutti i giorni e donne che non ti aspetti. In entrambi i casi conosceremo donne che hanno dimostrato carattere, spirito di gruppo e coraggio e le potremo incontrare al supermercato, in una corsia d'ospedale oppure sul campo di battaglia. Arrivano da ogni tempo e da ogni luogo del mondo e hanno in comune una storia da raccontare. Perché ogni donna di tutti i giorni è una donna che non ti aspetti. Donne di tutti i giorni. Quando il viaggio ha inizio, sei una donna di tutti i giorni e continui ad esserlo nel privato a dispetto del pregiudizio e della critica. Alla continua ricerca di te stessa, assumi molti volti e viaggi attraverso molte vite senza mai fermarti. Hai bisogno di sapere che la direzione è sotto il tuo controllo. La direzione è tutto, è il binario, l'orizzonte, il tuo credo, la tua spinta. Ti chiami Madonna Louise Veronica Ciccone e sei una delle donne più potenti al mondo. Madonna Louise Veronica Ciccone nasce a Bay City nel Michigan nel 1958, terza di sei fratelli e fino ai 19 anni vive a Pontiac. Le origini abruzzesi del padre la rendono da sempre orgogliosa. Nel suo descriversi italiana dice di sé: parlo con le mani, piango molto, sono appassionata, ho un brutto carattere e amo le belle scarpe. E non è un segreto per nessuno che il suo motto sia Italians do it better. La sua infanzia è segnata dalla prematura morte della mamma, che a soli 5 anni la consegna a una vita di dolore e responsabilità. Il papà vive la perdita diventando assente e rigido e i fratelli più piccoli vanno accuditi. Madonna, il suo nome di battesimo e non un semplice pseudonimo, cresce in fretta e si emancipa da subito. Inizialmente colma il vuoto lasciato dalla mamma con l'istinto della Croce Rossina, che governa la sua quotidianità. Casalinga modello, frequenta scuole cattoliche e indossa alternandoli la divisa della scuola e il grembiule da cucina. C'è tuttavia qualcosa che quel rigore e quelle regole non hanno scalfito: la sua passione per la danza. Sebbene sia iscritta a una scuola pubblica di ballo, non è abbastanza. I suoi progetti vanno ben oltre quel binario, poiché, per citare Levitan, ogni ragazza dall'aria qualunque custodisce dentro di sé una verità decisiva. Andai a New York, non conoscevo nessuno. Volevo ballare, volevo cantare, volevo rendere felice la gente, volevo essere famosa, volevo che tutti mi amassero, volevo essere una star. È cosa nota che Madonna sia giunta a New York con 35 dollari in tasca. Ma erano gli anni 70 e potevano bastare per dormire sul divano dell'amica facendo turni al fast food per mantenersi nella scuola di ballo che le avrebbe aperto le prime porte verso l'ascesa. Che fosse un vero talento è indiscutibile, che la sua determinazione superasse le sue capacità anche. E nonostante uno stupro e un susseguirsi di compromessi e ostacoli che hanno da subito costellato la sua strada, non si è arresa. E una tappa dopo l'altra segna il punto e infila nel cesto ogni possibile premio o riconoscimento, fino a diventare un'icona criticata e ammirata, vessata e invidiata, passando da una identità all'altra con lo stile di un camaleonte. Non a caso Baudrillard, nel suo libro Il delitto perfetto, da buon detrattore dice di lei: Madonna incarna paradossalmente la frigidità frenetica della nostra epoca. Essa può interpretare tutti i ruoli, ma può farlo perché sa sfruttare la sua totale assenza di identità. Ha molte identità o non ne ha nessuna? Lo scopriremo tra poco. Nel 2009, a seguito dell'evento sismico che devasta L'Aquila, sempre fedele alle sue origini, fa una cospicua quanto provvidenziale donazione tramite la Ray of Light Foundation, senza vantarsene mai pubblicamente. Nel 2013 pubblica online Secret Project Revolution, un manifesto di denuncia contro l'oppressione e l'abuso dei governi che limitano la libertà del singolo individuo. In contemporanea si unisce alla campagna Free the Arctic Turtle, e nel 2006 è in Malawi per sostenere la costruzione di un orfanotrofio che salverà dalla strada e dalla fame migliaia di bambini nella campagna di prevenzione dell'AIDS. E ne adotterà 4, che uniti ai suoi 2 figli naturali avuti da 2 diversi matrimoni, la renderanno madre di 6 figli. Secondo Scaruffi, il mito di Madonna non è che un aggiornamento della figura dell'eroina romantica e fatalista. Donne che non ti aspetti. Sei l'artista più premiata al mondo, ma ad averti resa speciale è la capacità già 40 anni fa di profetizzare il tuo futuro. Quel binario e quell'orizzonte. Hai dichiarato a 20 anni che saresti diventata, e lo sei diventata, ballerina, cantautrice, stilista, regista, attrice e produttrice cinematografica e discografica. Una donna che non ti aspetti, l'alter ego di Veronica Ciccone, Madonna. Madonna non è solo un talento, ma anche una scopritrice di talenti. Sono moltissimi gli artisti che devono il loro successo a lei. Sono innumerevoli i record che ha segnato negli anni. L'artista donna che ha venduto più dischi in tutto il mondo è solo uno dei suoi riconoscimenti globali da Guinness. Ha sempre imputato la sua fame di vita e di rivalsa alla perdita della mamma. Non le ha dato un'educazione, ha dichiarato una volta, poiché non ce n'è stato il tempo. Così l'altro suo sé, il lato ribelle ed esposto, è cresciuto senza educazione, camminando verso la trasgressione. Il suo essere alla costante ricerca di un io, mettendo in scena personalità sempre diverse e trasformando la sua immagine in ogni contesto, come un camaleonte che si mimetizza per proteggersi, ha portato la critica a ritenerla un'icona di immoralità, ma è il modo più superficiale di valutarla. In parte la sua è una psicopatia latente, in parte questo continuo camuffarsi è tipico dell'artista puro. Da sempre la maschera e il travestimento, la mescolanza di genere, la versatilità, il colore e il caos sono strumenti essenziali all'opera artistica, o non sarebbe arte ma mero compito in classe. Per questo motivo possiamo ritenere Madonna un caleidoscopio di forme d'arte che mai si atterrà al manuale del bon ton. Il suo modo di esporsi è spesso opposto al suo vero essere. Quando è artista, Madonna costruisce il mondo che non ha. Nel video racconto che fa in Papa Don't Preach, porta in scena una storia di provincia in cui una giovanissima si innamora del meccanico squattrinato e resta incinta. E il padre vedovo che l'ha cresciuta è tutto quello che ha. Da qui la difficoltà di confessare la gravidanza senza ferirlo o essere cacciata. Dopo un lungo silenzio, i due si abbracciano. Il messaggio che segue è che la giovane terrà il bambino e che in un modo o nell'altro ce la faranno. Vedo in questo racconto nuovamente emergere l'alter ego di Veronica Louise. Nella realtà ha avuto diverse relazioni e da giovanissima è rimasta più volte incinta ma ha sempre abortito. Nel video story di Papa Don't Preach lei tiene il bambino. Il suo modo di espiare, forse. Vedo nelle sue storie e nei testi delle sue canzoni il desiderio di essere ciò che la vera lei non sempre è. Il coraggio di vivere vite parallele. Giudicarla per alcune manifestazioni blasfeme, di conseguenza non ha senso, poiché se il suo alter ego artista è stato in talune circostanze blasfemo, potremmo affermare per logica che nella sua vita reale lei non lo sia affatto, ma che anzi sia rispettosa dei rituali religiosi. Ci viene confermato dal suo avvicinamento a ogni credo, dal cattolicesimo al buddismo fino all'islamismo. Non ne ha abbracciato rigorosamente nessuno, ma li ha studiati e seguiti tutti con vera abnegazione. Per questo affermerei che di identità ne abbia molte e che, soprattutto, sia la più grande prova di libero arbitrio mai esistita. Nessuno come lei ha messo in atto e realizzato ogni progetto che ha sognato. Non ultimo il suo impegno al fianco dell'Ucraina nella lotta contro la guerra voluta da Putin. L'invasione guidata dall'avidità e senza scopo da parte della Russia deve essere fermata, dichiara davanti a milioni di persone. E con un video remixato dal suo brano Sorry, mostra bombe che cadono a grappolo sui civili dal volto insanguinato. Un messaggio forte di protesta e un impegno concreto perché il conflitto abbia fine. Eletta, tra le altre cose, donna dell'anno nel 2016, nel ringraziare il pubblico dichiara a gran voce: Ai dubbiosi, ai signor no che mi hanno fatto passare le pene dell'inferno dicendomi che non avrei potuto, che non sarei riuscita e che non avrei dovuto. La vostra resistenza mi ha reso più forte, mi ha portata a impegnarmi di più e mi ha reso la combattente che sono oggi. Mi ha reso la donna che sono oggi. Se la sua forza sia merito di chi l'ha osteggiata non ci è dato sapere, ma non v'è dubbio che questa donna, nel male e nel bene, sia consacrata all'immortalità. Alessandra Startari. Scrittrice romana, giornalista dal 2004, da oltre 20 anni si occupa di attualità e società, cercando di indagare attraverso mirati programmi televisivi e radiofonici nazionali, documentari ed eventi benefici di cui è stata autrice, conduttrice e curatrice, il sistema di vita e le reazioni umane nei diversi strati sociali e i cambiamenti che subiscono di generazione in generazione. Autrice di diversi articoli di successo e di documentari con lo pseudonimo Alessandra Starr, ha pubblicato Come due spine, 2002, per De Agostini, romanzo vincitore degli Watty Award, premio internazionale dedicato alla miglior narrativa d'autore. Amore verso, 2021, per Amazon Legal Romance. Vapore rosso, 2020, per Amazon Paranormal Contemporaneo. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.